Ben ritrovati da Alessandro Milan, saluto il leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro. Buongiorno e ben ritrovato Di Pietro. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Senta, sulla questione delle province, lei ha parlato di tradimento, no, da parte del centrosinistra. Oggi Rosi Bindi sull'Unità parla della vostra proposta come demagogica, che non avrebbe cambiato nulla e che quindi non doveva essere seguita dagli altri. Per notizia, ma per notizia e per, come si dice, carta canta, la stessa proposta l'aveva fatta anche il PD con il proprio emendamento e poi l'ha ritirata un minuto prima. Siamo in due ad essere demagogici, primo. Secondo, dal 1970, da quando sono state fatte le regioni, si discute di abolire le province. Sapete come è fatto il nostro emendamento? Era una proposta di riforma costituzionale dove nella Costituzione, laddove c'è scritta la parola province, si abroga la parola provincia. È il primo passo che bisogna fare per poter fare poi le leggi con cui i poteri delle province vanno trasferiti ad altri organizzazioni, tipo le regioni e i comuni. Quindi non c'è altro modo da fare per abrogare le province che partire dall'abrogazione del termine province della Costituzione. Ora, che uno si vuole giustificare perché è stato ha sbagliato, ed è tanto vero che ha sbagliato, perché all'interno del Partito Democratico e all'interno del Partito del Popolo della Libertà ci sono state tante persone che si sono rammaricate di non averlo fatto. Allora, ammettessero l'errore piuttosto che accusare, perché mi hanno imputato che accusa il giudice. Lei infatti, non so, per esempio oggi trova sponda su Libero, Libero titola "I parassiti delle province, aboliamoli", e il direttore Belpietro la invita a fare una proposta di legge popolare, come dire, noi la firmiamo se... Guarda che la proposta di legge io l'ho già fatta, l'abbiamo già discussa in Parlamento e l'hanno bocciata, e purtroppo quando in una legislatura bocciano una legge non è che poi si può riproporre uguale a quella che è fatta prima, si sono mangiate le mani da soli questi signori, ma la cosa che più dispiace è che era nel programma del Popolo della Libertà ed era nel programma del Partito Democratico e l'hanno sbandierata in tutti i sensi, è tanto vero quel che affermo che molti esponenti e del Popolo della Libertà e del Partito Democratico hanno, diciamo così, criticato i loro partiti per non aver avuto il coraggio di farlo. Ora, io capisco che devono salvaguardare un po' di presidenti di consigli, un po' di consigliere provinciale, ognuno delle proprie organizzazioni. Ma il problema è proprio questo, Di Pietro, sia sincero, lei, se avesse qualche presidente di provincia d'Italia dei Valori, propone questa cosa? Le posso assicurare che noi in tutte le province, quasi tutte le province, siamo presenti, i nostri consiglieri provinciali. Abolire le province vuol dire abolire innanzitutto i nostri consiglieri provinciali. Carta canta, si dice. Tremonti però dice sui costi della politica di più non si poteva fare, deve decidere il Parlamento. È un falso storico anche questo. Noi abbiamo fatto una controproposta in cui abbiamo trovato i soldi che servono a Tremonti a un costo pari, ma nello stesso tempo togliendolo non dalle pensioni né dagli stipendi, bensì togliendolo dagli sprechi e dai costi della politica, a cominciare dai rimborsi elettorali per finire alla eliminazione di tutti i consigli di amministrazione, mi ascolti, tutti i consigli di amministrazione di tutte le società a capitale pubbliche e degli enti territoriali, che ce ne stanno una miriade. Invece di fare i consigli di amministrazione si fa l'amministratore unico e si elimina quei 6-7 consiglieri di amministrazione che servono, che sono quasi tutti trombati, che vengono messi là per trovare lo stipendio a gratis. Senta, ma lei, Di Pietro, da ex magistrato, non trova giusto il principio della cosiddetta norma pro finifest, cioè chi si paga in un contenzioso civile solo al terzo grado, come nel penale? Lasciamo stare i tempi. Sui tempi, guardi, che tutti hanno detto che è stata un errore, infatti è stato allora, tolto. Le risparmio l'inopportunità e la furbata di averlo messo a 3 giorni dal... Però già adesso è così, adesso che cosa si dice? Si dice dopo il grado di appello si lascia al giudice decidere dove sta una maggiore parvenza di ragione, ed è meglio che quello possa tenere in mano i soldi fino a quando non si stabilisca definitivamente chi deve avere questo risarcimento danno. Già adesso il giudice può stabilire. Appunto, a discrezione. Già, a discrezione. Ma la discrezione non è mica un arbitrio, la discrezione è come la sentenza, sulla base degli atti, sulla base delle prove, sulla base del fatto che dopo 2 gradi di giudizio ci sono due persone, uno che reclama la ragione e l'altro che non gli vuole dare ragione. Allora si lascia il al giudice di valutare caso per caso quanto già si può dare questo risarcimento, in tutto anche in parte. L'idea di obbligatoriamente non farlo decidere al giudice vuol dire una forzatura. Perché? Perché se ci sta qualcuno che ha ragione, quel qualcuno finisce per ritrovarsi con un pugno di mosche in mano. Facciamo il caso della Fininvest e della Mondadori, tanto per fare il caso attuale. Sì, sì. È ovvio che pagando tutti quei soldi ci saranno delle difficoltà per l'uno o per l'altra impresa, ma perché? Perché dopo due gradi di giudizio il giudice non può essere lasciato libero di decidere e di valutare se nell'un caso o nell'altro quel che non deve essere penalizzato, non deve essere la CIR piuttosto che la Mondadori. Ecco, allora questa idea di stabilire obbligatoriamente che fine il giudice deve decidere in un modo è una contraddizione costituzionale. Il giudice per definizione può e deve decidere sulla base della risultanza degli atti, ma se tu gli dici già a monte devi fare la sentenza in questo modo, ma che ci sta a fare allora? Senta Di Pietro, per concludere, c'è un giallo, pare che ci sia, commissionato dallo stesso onorevole Scilipoti, un lungometraggio, un film dedicato a lei, insomma, sulla sua ascesa piena di chiaroscuri, PM Forever, questo è il titolo. Scilipoti forse ha smentito, però forse c'è questo film. Lei ne sa qualcosa? Attende, non ne so assolutamente. No, beh, certo, lei non ne sa nulla, immagino. Non ne so assolutamente nulla, non intendo utilizzare alcunché, mi riservo di valutarlo e valutare se è un film anche di critiche, come tutte le persone pubbliche non posso che accettarla. Se però si riferiscono fatti falsi, fatti di cronaca falsa, per esempio, voglio dire, se dicono Di Pietro non ha la laurea, sa quanti soldi mi ci sono fatti a questi che mi hanno detto che non ha la laurea? Se dicono che Di Pietro è un agente dei servizi segreti americano, mandato qui apposta per abbattere la Prima Repubblica, ma certo che mi arrabbia, perché io sono semplicemente una persona che nella sua vita ha cercato di fare quel che il dovere gli imponeva. Quando facevo il muratore di fare il muro dritto, quando facevo il poliziotto di arrestare i delinquenti, quando facevo il magistrato di mettere in galera chi veniva condannato, e quando faccio il politico cerco di fare il mio lavoro nell'interesse della collettività, tanto è vero che due cose importanti resteranno scritti nei libri parlamentari, il referendum, sì, che grazie a Dio che l'ho fatto. Per la verità Berlusconi anche ha detto, non che lei non aveva la laurea, che l'aveva presa in un modo, ma lei l'ha anche querelato, ma dopo il colloquio che avete avuto l'accantona questa cosa o no? No, ma se non è che accantona, voglio dire, tutte le volte che io vengo criticato legittimamente me ne prendo e cerco di migliorare, ma quando uno falsifica la realtà, se qualcuno dovesse dire che io sono un capellone invece mi stanno cadendo i capelli, uno ha detto la falsità. Se qualcuno dice che io ho fatto il mio dovere di magistrato non per il mio dovere di magistrato ma per favorire una parte piuttosto che l'altra, è certo che non è che mi arrabbia, è un'offesa alla verità, è un'offesa alla storia giudiziaria di questo paese. Va bene, intanto la ringrazio, buona giornata, grazie per essere stato con noi. 24 mattino. Allora, le 8:36 minuti, questo scudetto 2006 dell'Inter, secondo voi da togliere? Il tema del nostro sondaggio, e subito sentiremo che ne pensa Giampiero Mughini, ieri intervenuta alla Zanzara di Giuseppe Cruciani. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Ma io resto di stucco a sentire alcune dichiarazioni di tifosi dell'Inter, l'ultimo il ministro La Russa. Ma davvero loro sentono quel cosiddetto 14° scudetto di merda e di cartone? Lo sentono come uno scudetto di cui vantarsi? Quando entrano in sede, il fetore di quello scudetto non lo sentono? Fetore di quello scudetto. Giampiero Mughini. Voglio salutare Oliviero Bea, buongiorno, giornalista, buongiorno, e scrittore. Buongiorno. Tra l'altro tra poco uscirà con un'edizione aggiornata del Calcio alla Sbarra, edizione Burr, con le ultime, perché nel calcio bisogna aggiornare, mese dopo mese. Se bisogna aggiornare, sì, esce la prossima settimana. Ecco. Voglio salutare anche allora Evaristo Beccalossi, grande ex giocatore dell'Inter, opinionista di Calcio in TV, buongiorno Beccalossi. Ciao, buongiorno a tutti, ciao Oliviero. E saluto anche Massimo Giletti, eccoci qua. Massimo Giletti, conduttore Rai, tifoso juventino doc. Massimo, buongiorno. Ah, buongiorno, buongiorno. Allora, intanto Oliviero Bea, Mughini la vede così, ecco, sta di fatto che Moratti dice a questo punto non è neanche la questione dello scudetto, che comunque è un punto fermo, è la questione dell'attacco a Giacinto Facchetti, no? Una persona che è scomparsa, non si può più difendere proprio anche materialmente, giuridicamente. Questa cosa è la cosa che ha fatto più male e fa più male a Moratti, agli interisti. È l'approccio giusto? No, è l'approccio sbagliato, ma completamente sbagliato e da un altro punto di vista, e cioè si fa onore alla memoria di Facchetti, che era una brava persona, rinunciando alla prescrizione. Il fatto che Facchetti purtroppo non ci sia più non cambia il fatto che, se Moratti vuole, visto che tutto quello che faceva Facchetti lo faceva su indicazioni di Moratti, c'è da chiedersi a distanza di anni perché abbia fatto il presidente Facchetti per un certo periodo, se non per conto di Moratti, e per quali motivi. Per cui la memoria di Facchetti viene rispettata se si fa chiarezza. Se Moratti, come dice, ha tutte le ragioni, sono puliti e via dicendo, cosa che io mi auguro ma che andrebbe accertata, uno, rinuncia a prescrizione. Due, se non è colpevole di aver usato Facchetti da vivo, la smetta di usare Facchetti da morto, perché è lui che sta mancando di rispetto a Facchetti, non permettendo di sapere le cose come stanno. Quanto alla faccenda dello scudetto, è relativamente importante, secondo me andrebbe ritirato e non aggiudicato. E il problema è questo: o ha ragione Moratti e tutto quello che dice Palazzi a proposito di illecito sportivo è vero, è falso, e quindi allora fa bene a indignarsi, ma fa bene a chiarire a tutti, tifosi interisti e non interisti, che cosa è successo. Oppure Palazzi c'ha forti motivi di verità nell'indicare illeciti sportivi, e allora vorrei sapere come per 5 anni è stato possibile dire che l'unico capo mafia in circolazione fosse Moggi. Mettiamo che lo fosse, ma gli altri? Tra l'altro Moggi, che ieri su Libero, anche qui a Radio 24, ho intervistato il nostro Dario Ricci un paio di giorni fa, ha detto: adesso posso giro per strada e sento che la gente mi saluta. Adesso, paradossalmente, come se Moggi con questa decisione, con queste carte di Palazzi, diventassero... Sì, hai ragione, perché è tutto sbagliato. Cioè c'è un Evaristo, che era un gran giocatore, una persona per bene, sa che cosa voglio dire quando dico che il sistema è guasto. Io non me la prendo col singolo, perché poi il sistema è guasto al punto che se uno non rispetta le regole, cioè non viola le regole, il rispetto delle regole consiste nel violarle, è fuori dal giro. Questo è il punto. Vediamo, Evaristo Beccalossi e Massimo Giletti. Allora, Evaristo, fanno bene gli interisti a tenersi aggrappati a questo scudetto, oppure dovrebbero dire: ma chi se ne frega? Cioè, qual è la battaglia vera che stanno facendo gli interisti? La questione di dire... bisognerebbe rimettere un po' di ordine in tutto, perché basta anche pensare all'assegnazione di quello scudetto lì, che non si trova un documento che certifichi che l'Inter ha vinto lo scudetto, e ti fa capire tante cose. Non c'è un documento, cioè è stata presa una decisione e non c'è. Poi andiamo avanti e è finito tutto. Prescrizione, dichiarazione di Palazzi, perché una certa difesa aveva interesse a far uscire, e probabilmente a far dire anche certe cose. Io credo che quegli anni lì sia stato brutto per il calcio, al di là che probabilmente tutti chiamavano, tutti, perché ognuno cercava di coltivarsi il proprio orticello. Però la cosa sbagliata, secondo me, è stata probabilmente all'inizio, perché all'inizio si pensava veramente che ci fosse solo una situazione, e invece cammin facendo abbiamo scoperto, insomma, che tutti cercavano, perché io parlo da interista, in quegli anni lì cercavo appunto di pensare di tra virgolette di potermi difendere da un qualcosa, cioè dire siccome si era capito che qualcuno era più influente, allora probabilmente di essere tutelato, perché si sapeva, si sentiva, insomma, chi fa parte del mondo del calcio pensava una cosa. Quindi misure contro misure. Sentiamo da uno juventino doc, Massimo Giletti, la questione è questa: cioè adesso che Moggi vada in giro a dire sono riabilitato, mi sembra un po' il craxiano, rubavano tutti quindi nessuno è ladro, no? Giletti, o no? Ma ognuno ha la sua intelligenza e sa valutare quello che è. La verità è che è molto triste arrivare dopo anni a capire che c'è stata una grande ipocrisia su Calciopoli 1, cioè lì c'è stata una miopia voluta di chi ha diretto l'inchiesta, alla velocità delle scelte che sono state fatte, all'assegnare all'Inter uno scudetto che non doveva minimamente essere assegnato all'Inter. Ricordo che la Juventus aveva avuto aveva fatto, mi sembra, 91 punti e l'Inter ne avesse 30 in meno, cioè un abisso. La Juventus aveva 11 giocatori in quella finale di Coppa del Mondo. E, mi sembra tutto molto strano, ma la domanda vera è un'altra. Perché quelle intercettazioni che sono di una gravità assoluta, tant'è che Palazzi non parla di slealtà sportiva, ma parla di illecito. Sì. E ricordo che la Juve venne condannata e retrocessa per slealtà sportiva, non per illecito. Venne dedotto l'illecito, ma non è ben provato. Qui si parla volutamente di illecito. Ecco, perché quelle trascrizioni non vennero date a chi di dovuto, alla commissione sportiva? Come mai i giudici napoletani hanno fatto finta di niente? Perché è impossibile non pensare che le telefonate di Facchetti, con tutto il rispetto che noi possiamo avere per un'icona del calcio, però Moratti la deve finire di nascondersi dietro a Facchetti, perché le intercettazioni purtroppo sono lì, si sentono, si ascoltano. È vero che ci va il rispetto per chi non c'è più, ma quelle intercettazioni sono lì. Perché non sono state sbobinate e mandate a chi doveva intervenire? Questa è stata veramente, la uso una forzatura, però ecco, questa e si è tolto finalmente questa ipocrisia, un velo di ipocrisia che si era buttato. Si doveva fare la gabbia alla Juve, l'hanno fatta, ma che l'Inter risponda col suo presidente in questo modo, ma francamente dell'ipocrisia. Questo è il paese dell'ipocrisia e della prescrizione. Detto che esatto, cioè la questione è tutta prescritta, anche se Olivero Bea dice, come ha scritto il procuratore Palazzi, alla prescrizione si può rinunciare, ma insomma sembrava quasi uno sberleffo quello detto da Palazzi, cioè chi è che rinuncia alla prescrizione in Italia? Intanto, detto che il 69% dei nostri ascoltatori dice sì, andrebbe tolto questo scudetto, voglio sentire Gianfranco dalla provincia di Campobasso prima del traffico, ci ha chiamato all'800240024. Gianfranco, buongiorno. Buongiorno a tutti. Alcuni punti in maniera molto sintetica. Numero uno, l'ha detto anche Giletti, sicuramente Giacinto Facchetti ritengo sia l'emblema dell'onestà. Vabbè, ma non ripetiamolo tante volte, è così, nel senso che lo sappiamo. Una persona, qui si tratta di capire se però c'erano delle telefonate, se c'era. È un dato di fatto. Insomma, Giacinto Facchetti è una persona di cui nessuno ha mai avuto niente da ridire dal punto di vista dell'etica, la morale, da calciatore, da dirigente. Dica, Gianfranco. Vabbè, dobbiamo ripristinare allora la linea. Diamo le informazioni sul traffico. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, sentiamo Paolo dalla provincia di Varese. Buongiorno. Buongiorno, dica. Grazie di avermi chiamato. Io volevo dire una cosa. Che lo scudetto debba essere assolutamente tolto all'Inter, perché è ottenuto con disonestà, perché l'Inter è riuscita a bloccare delle intercettazioni, perché all'interno ha Tronchetti Provera e tutt'altro. Però mettiamo un complottone. Mettiamo un complottone in tre secondi, insomma, diciamo, dica. Sì, io dico il risarcimento morale e soprattutto la correzione delle informazioni che sono state date allora, ovvero la stampa ha diffuso informazioni a chi non seguisse il calcio come se ci fosse stato solo un onesto che poi veniva premiato. Io le faccio un esempio, non solo Borrelli, che al di fuori del discorso calcistico aveva detto che la palla doveva ritornare rotonda, di un insegnante che a scuola ha imbevuto i suoi studenti dicendo vedete quando c'è l'onesto, cioè è tutto un discorso. Solo che l'Inter ha portato, bisognerebbe ricostruire, come si fa? Bisognerebbe ricostituire una verità andando indietro nel tempo. Paolo, intanto io la ringrazio, volevo capire da Olivero Bea, ieri il presidente della Juve Andrea Agnelli, ecco, io questa cosa non la capisco, dice cosa vuol dire la federazione deve rispettare la Juventus, bisogna prendere una decisione, cioè come se un'eventuale decisione che ci sarà il 18 luglio su togliere lo scudetto all'Inter in qualche modo riabilitasse, cosa che Palazzi assolutamente non ha fatto, non ha mai detto, anzi ha ribadito, insomma, come se riabilitasse i torti delle altre squadre, la Juve in primis, ma non solo, anche il mio Milan, ecco. Questo è sbagliato, io credo, quindi che cosa volesse dire Agnelli bisognerebbe chiedere a lui, posso dire che cosa ne penso io di quello che ha detto lui, è sbagliato, mentre è sacrosanto chiedere che venga tolto all'Inter per come è stato assegnato, per il contesto in cui è stato assegnato e per le telefonate venute fuori dopo. Ricordo a chi ci ascolta che ieri o il PM, uno dei due PM, dei due pubblici ministeri di Napoli che hanno cominciato l'inchiesta e che all'epoca in un'intervista all'Espresso dissero che io ero quello che aveva capito tutto e per questo non mi facevano lavorare, per cui io sono grato a posteriori, a 4 anni dopo, 5 anni dopo per questa dichiarazione, anche perché poi dopo lo stesso Moggi dice beh almeno all'inizio ha detto Moggiopoli e subito dopo si è corretto quando ha capito che cosa era successo e ha detto Calciopoli, non ho detto Moggi innocente, ho detto attenzione è il sistema calcio che è marcio. Ebbene Beatrice non più tardi di ieri, uno dei due PM, l'altro Narducci come è noto sta facendo l'assessore alla sicurezza per De Magistris a Napoli senza aver finito nemmeno il processo, uno dei due PM, Beatrice è iniziale che è trasferito, che adesso non c'è più lì, ha detto ieri non ce l'ha date Auricchio il maggiore dei carabinieri che ha fatto l'inchiesta, non ce le ha date quelle dell'Inter, quelle se no le avremmo tirato fuori pure noi. Pensate che pasticce, no? Quindi certo non avendolo avuto i PM non l'ha avuto nemmeno Palazzi. Chiaro. Quindi io ho pochissima stima di come funziona il vertice della federazione, l'ho scritto e detto in tutte le salse, lo ripeto in questo libro Il calcio alla sbarra, però insomma almeno che ci si prenda ognuno la propria responsabilità. Vi ricordo che Moratti 5 giorni fa, prima che venisse fuori la formula illecito sportivo di Palazzi, per la storia della prescrizione disse è un punto a mio favore. Ah sì? Un punto a tuo favore? Benissimo, rinuncia alla prescrizione. Evaristo Beccalossi, ma da ex calciatore che assiste anche da commentatore, vedere questi scandali che vanno continuamente aggiornati, no? Ne abbiamo finito uno qualche anno fa e stiamo parlando di un altro, magari minore, che qualche giorno fa però rischiava di terremotare il calcio. Che effetto fa? L'effetto è sempre brutto, perché poi dopo anche le valutazioni, adesso prima parlavate di chi deve prendere la decisione di togliere lo scudetto, sì. Ma secondo voi chi è che lo toglierà? La federazione, verrà trovato un'altra soluzione? Nessuno si vuole prendere la responsabilità di prendere questa decisione, perché insomma la decisione bisognerà prenderla in un modo o nell'altro. Però accontenti lui i juventini e scontenti gli interisti, scontenti gli interisti e contenti i juventini. Credo che comunque al di là di tutto, anche delle intercettazioni di altre squadre, così si è venuto fuori tutto, ma l'obiettivo iniziale era la Juve, colpire quel sistema. Esatto. Poi dopo cammin facendo, io credo che anche chi aveva diritto di potersi difendere ha speso dei soldi per andare a far tirare fuori tutto, e lì bisogna dare atto a chi si difendeva. E l'altra cosa, sono state dette un sacco anche di cose sicuramente che non corrispondono alla verità, perché all'inizio si pensava che appunto era l'Inter che aveva organizzato tutto per colpire la Juve, e questo facendo non era così, perché poi anche l'Inter È uscita. Ma a questo proposito, Giletti, ci spiega cos'è la questione della tutelare il nome della Juventus, ripeto, detto da Andrea Agnelli, perché cosa c'entra il fatto che venga tolto uno scudetto eventualmente col ripristinare il valore della Juventus? Scusate, che ha fatto la Juventus l'ha fatto, nel senso, questo non è discutibile. Ma nessuno, il problema è che si è costruito per anni l'idea di una calciopoli a senso unico, dove solo la Juve era il male. Ma non è vero, è stata condannata anche il Milan, è stata punita la Fiorentina. La grande condanna del Milan l'abbiamo vista. Tant'è che vince poi la Coppa dei Campioni nello stesso anno, dai, ma non giochiamo. Vabbè, è stato penalizzato. No, la ipocrisia non piace. Capito, la Juve è andata in Serie C, in ma Serie B. Avete letto le intercettazioni? Le avete lette? Certo, le intercettazioni di Pacchetti con Mazzei? Certo che le avete lette, no? Ecco, allora, io credo che quando Agnelli dice ci vuole rispetto, chiede semplicemente una cosa, che la Juventus venga trattata come è stata trattata, come è stato trattato Milan, anche l'Inter venga alla stessa maniera degli altri. Ma se è tutto prescritto, fossero uscite... Ma che cosa c'entra? Ma dove è tutto prescritto? Ma lei l'ha letto, ma l'hai letto cosa dice l'articolo 20 di quella disposizione che venne presa da un uomo che si chiama Guido Rossi, che porta qualcosa con l'Inter a che fare? C'è un passaggio sul quale vorrei che si riflettesse in modo molto attento, quando si dice che se si verificassero anche successivamente delle situazioni dove esce in squadre non colpite da sanzione anche un qualche atto di poca limpidità, ebbene, quello scudetto che venne assegnato da una commissione di 3 saggi, certo, può decidere di revocare. E magari succede, ma magari succederà questo. Sia questo. Va bene, ma magari succede. Nasconderci, nascondiamoci. No, è ma che chiede la Juve. Ma Massimo, come tutte le altre. Ma questo succede, ma questo magari succederà il 18 luglio in base a questa cosa verrà tolto. L'atteggiamento di Beccalossi è quello preoccupante, perché io credo che questo è un paese, come dice Oliviero, che purtroppo ha pagato sulla sua pelle la sua intelligenza, il suo essere onesto. Questo è un paese dove non si decide. Perché non si vuole creare. Sì, ma la questione della tutela della Juve è che se anche si decidesse di togliere lo scudetto, non è che questo ripristina il valore della Juventus in quegli anni. Cioè, quello che la Juventus ha fatto, ha fatto. È questo che non capisco della dichiarazione di Agnelli. No, ma io ti dico una cosa: la Juve è stata condannata nel 2006 per intercettazioni del 2004. Sì, lo sanno sì, questo, sì, no? Sì, sì. Cioè, è molto curioso, no? Io dico, io rubo nel 2004. E si sono venute fuori nel 2006, dopo. Nel 2006, nel 2007, nel 2008, nel 2009, se si applica questo concetto. Mi sembra molto curioso. Quando sono venute fuori. In ogni caso io qua mi devo fermare perché il tempo è finito, ma vedremo, da qui al 18 luglio ne sentiremo ancora di tutti i colori. Il 18 luglio pare che ci sia questa decisione sull'assegnazione dello scudetto. Ringrazio tutti, da Oliviero Bea. Voglio ricordare il suo Calcio alla Sbarra, esce la prossima settimana l'edizione aggiornata. Massimo Giletti e Evaristo Beccalossi per essere stati con noi. Allora, dalla redazione, da Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi e da Paolo Corleoni in regia, il buongiorno ancora rinnovato e diamo tutti linea, palla, microfono, palla soprattutto oggi a Oscar Giannino. Ci troviamo domattina alle 7:20.